Sono Krishnamurti, sempre la ricerca della felicità. C'è un paragrafo che parla del condizionamento sociale e di come la mente sia forgiata dalla società a cui apparteniamo. Dice Krishnamurti: sapere come funziona la propria mente è un fine essenziale dell'educazione. Se non sapete come reagisce la vostra mente, se la vostra mente non è consapevole delle proprie attività, non potete effettivamente comprendere che cos'è la società, poiché la mente è parte della società, anzi, è la società. Le vostre reazioni, le vostre credenze, la vostra frequentazione del tempio, gli abiti che indossate, le cose che fate o non fate, ciò che pensate, la società è fatta di tutto ciò, è la replica di quello che accade nella vostra mente. Dunque, la vostra mente non è separata dalla società, non si distingue dalla vostra cultura, religione, dalle varie divisioni di classe, dalle ambizioni, dei conflitti della maggioranza della gente. Tutto questo è la società e voi ne siete parte. Non esiste un voi, un io separato dalla società. Orbene, la società cerca sempre di controllare, forgiare, plasmare il modo di pensare dei giovani. Dal momento in cui nascete e cominciate a recepire impressioni del mondo, vostro padre e vostra madre sono costantemente occupati a dirvi cosa fare e cosa non fare, in cosa credere e in cosa non credere. Vi dicono che vi esiste oppure no, o che esiste lo Stato e che è un dittatore nel profeta. A partire dall'infanzia vi installano dentro queste cose, il che significa che la vostra mente, che è molto giovane, impressionabile, indagatrice, curiosa di conoscere, desiderosa di scoprire, viene poco a poco imbrigliata, condizionata, plasmata, in maniera tale da farvi inserire nello schema di una determinata società ed evitare che diventiate dei rivoluzionari. Una volta che l'abitudine a pensare in modo schematizzato è già installata in voi, qualsiasi ribellione rimane sempre all'interno di quel determinato schema sociale. Non è una vera ribellione, non è un'attività rivoluzionaria, è semplicemente una forma più, un'altra forma all'interno dello schema sociale. La vera rivolta, la vera rivoluzione consiste nel distaccarsi dallo schema e indagare al di fuori di esso. Vedete, tutti i riformatori, non importa chi siano, si preoccupano soltanto di migliorare le condizioni all'interno della prigione. Non vi dicono mai di non adeguarvi, non vi dicono mai aprite un varco nelle mura della tradizione e dell'autorità, scrollatevi addosso i condizionamenti che limitano la mente. Quella è vera educazione. Non semplicemente chiedervi di superare esami per i quali vi siete riempiti la testa di nozioni o mettere per iscritto cose che avete imparato a memoria, bensì aiutarvi a vedere le mura di questa prigione in cui è rinchiusa la mente. La società ci influenza tutti, plasma costantemente il nostro pensiero e, a poco, la pressione esterna esercitata dalla società si traduce in pressione interiore. Ma per quanto penetri in profondità, resta comunque esterna. E in effetti non esiste una vera interiorità fino a che non si spezza tale condizionamento. Dovete quindi conoscere ciò che pensate, sapere se pensate da indù, da musulmano, da cristiano, ossia nei termini della religione a cui il caso vuole che apparteniate. Dovete essere consapevoli di ciò in cui credete o non credete. Tutto ciò costituisce lo schema della società. E a meno che non diventiate consapevoli di tale schema e ve ne distacchiate, continuate a esserne prigionieri anche se pensate di essere liberi. Ma per essere liberi dovete comprendere interamente i contenuti, ossia comprendere la vostra stessa mente. È la mente che ha creato la civiltà attuale, questa cultura o società legata alla tradizione. Ecco perché è così importante conoscere se stessi, avere consapevolezza delle proprie attività, dei propri pensieri e sentimenti. Questa è la vera educazione.